Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti dal Groovemaster Studio per dare il via all'appuntamento numero 220 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Ti vedo felice che stasera, perché vedi il nostro studio pieno di gente, pieno di bravi musicisti. Sì, perché la puntata di oggi la dedichiamo allo swing. Vi racconteremo l'evoluzione dello swing che dagli Stati Uniti un bel giorno è arrivato anche in Italia. E parliamo dello swing italiano con una band di riferimento del nostro paese sul genere, ovvero Le Voci di Corridoio. Buonasera e benvenuti al Soundcheck, ragazzi. Buonasera Gegè. Buonasera ai radioascoltatori. Buonasera a tutti. Ecco, le voci che avete sentito appartengono a Paolo Mosele e Elena Bacciolo, che sono componenti delle Voci di Corridoio, una band, come dicevo, che ha come obiettivo quello di riportare in auge la bellezza, il piacere e la gioia dello swing italiano e non. Ma andiamo, caro Francesco Tromba, con una presentazione dettagliata sulle Voci di Corridoio. Sì, allora iniziamo con i componenti. Oltre ad Elena Bacciolo e Paolo Mosele, ci sono anche Fulvio Albertin e Roberta Bacciola alle voci, Luca Rigazio alla batteria, Saverio Miele al contrabbasso e Tiziana Cappellino al pianoforte. Ecco, che sentite in sottofondo, perché come hanno visto gli strumenti naturalmente si sono eccitati e hanno iniziato a suonare per noi. Eh sì, fa sempre questo effetto lo studio agli ospiti musicisti. Le Voci di Corridoio nascono nel 1990 a Torino e si concentrano da subito sulla riscoperta del repertorio swing italiano, a partire dagli anni 30 fino ad arrivare agli anni 60. Inizialmente avevano un altro nome, si chiamavano Swing and Five, poi hanno deciso di cambiare in Voci di Corridoio. Swing, ironia, leggerezza, qualità e originalità degli arrangiamenti sono le caratteristiche principali del loro ultimo progetto, Speciale per l'Elio, un omaggio a Lelio Luttazzi, uno dei maestri dello swing italiano. Ospite e collaboratrice illustre di questo progetto è anche la vocalist Iula De Palma, un altro pezzo di storia dello swing italiano che fu lanciata dallo stesso Lelio Luttazzi e che torna da cantare dopo tanti anni di inattività. Ecco, come avete incontrato Iula De Palma, che tra l'altro da tantissimo vive in Canada, no? Certo, vivi a Toronto da 40 anni, Iula, da ben 40 anni. Ma è stata una casualità, nel senso che noi la seguivamo in effetti da tanto su YouTube. Per fortuna esiste YouTube con tantissimo materiale. Io feci un lavoro nel 2010, quando scomparve Lelio, con la moglie di Lelio, la signora Rossana Luttazzi, con la Fondazione Luttazzi. Facemmo un doppio CD, un cofanetto con tutta la musica da film di Lelio, e appariva in tutto questo materiale che avevamo trovato alla Sugar, in questi scatoloni con i vecchi nastri della Cam, tantissime canzoni cantate dalla giovanissima Iula. E per cui chiesi alla signora Luttazzi se aveva qualche contatto. Lei mi disse: guarda, mi ricordo che Lelio ogni tanto le scriveva un'email. Quindi le chiesi se me la poteva dare e scrivemmo a Iula, che ci rispose nel giro di 24 ore. Allora, Voci di Corridoio, una band italiana che ripercorre la storia dello swing internazionale americano, ma soprattutto con una devozione nei confronti dello swing made in Italy. Io direi però, caro Paolo e mia cara Elena, di raccontare un po' l'evoluzione dello swing, il genere musicale. Quando si parla di swing bisogna essere molto precisi, perché si parla di un genere musicale tipicamente americano che si è sviluppato fra Kansas City e New York intorno agli anni 20 fino, diciamo, alla metà degli anni 30, primi anni 40, quando poi arrivò il periodo brutto con la Seconda Guerra Mondiale, quindi chiusero la maggior parte dei locali importanti, quelli dove si esibivano le grandi big band, perché mancavano i soldi. E però a un certo punto appare anche nel nostro paese con qualche anno di ritardo. Che cosa vi interessa oggi dello swing, con la musica che è cambiata, si è evoluta? Perché avete la passione per lo swing? Sì, la cosa interessante è quella di questi primi pionieri come Natalino Otto, che faceva il batterista sulle navi che facevano la spola tra Genova e New York, e che imparò proprio questo modo di sincopare prima la batteria e lo riportò poi nella voce. Ma anche come Gordy Kramer, come tutti questi primi che hanno subito captato questo modo incredibile di suonare, e sul quale poi i nostri testi l'hanno fatta da padrone, perché poi la freschezza italiana, la freschezza del costume che viene fuori da queste immagini dei primi brani swing sono incredibili. Allora diamo subito un suono di riferimento per vedere che cosa hanno combinato Voci di Corridoio in questo nuovo album intitolato Speciale per l'Elio, con la partecipazione di Yula De Palma. E il primo brano, visto che parliamo proprio di un genere che è nato e si è sviluppato negli Stati Uniti, direi di utilizzare per aprire le danze questa composizione di Lelio Luttazzi intitolata Vecchia America. È un brano scritto per il quartetto Cetra, giusto? Scritto per il quartetto Cetra, e venne anche cantato da Luttazzi quando ritornò a Sanremo nel 2009 nell'edizione diretta da Paolo Bonolis. Cantato in coppia con Arisa, credo. Questo brano lo cantò da solo. Lui accompagnava Arisa, poi rimase sul palco per cantare anche questa canzone. Mi piaci, Tromba, perché sei preciso. Ecco qui, Voci di Corridoio con Vecchia America, qui al Soundcheck di Radio 24. Charleston, Dixieland, gare di claquette, indietro e sei pare, che folli te da te. Dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava di avere trovato la formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Tom Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla Manjou, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Soundcheck di Radio 24 dedicato allo swing e allo swing italiano, con la partecipazione qui in studio di Voci di Corridoio, e a fare da portavoce della band ci sono Paolo Mosele e Elena Bacciola. Allora, stavamo parlando dello swing, io vorrei dare alcune informazioni, perché proprio alla fine degli anni 20, in piena crisi economica, proprio nel periodo del proibizionismo, lì negli Stati Uniti si sentì il bisogno anche in campo musicale di divertirsi, insomma. E allora ci fu un'evoluzione musicalmente parlando, perché quelle che un tempo erano le piccole band che proponevano il Dixieland e il New Orleans ormai non funzionavano più, non portavano più pubblico nei club, e in due importantissime città americane come New York e Kansas City, e i proprietari dei grandi club pensarono bene di assoldare dei grandi organici. E quindi Kansas City era famosa perché era presente nella città la Big Band di Count Basie, e a New York invece al Cotton Club si esibiva l'orchestra incredibile e rivoluzionaria del maestro Duke Ellington. Due sound diversi, il genere di Kansas City più radicato nel blues, la Big Band di Duke Ellington invece era una band composta da alcuni fra i migliori talenti di quel periodo, ed era una Big Band rivoluzionaria. Ma la gente frequentava i locali perché si beveva alcol, fiumi di alcol, e naturalmente si ballava. I locali erano gestiti da gangster, e poi sappiamo che durante il periodo della guerra, come dicevamo, questo periodo importante per la musica e per lo swing finì proprio perché non c'erano soldi, e molti club non riaprirono dopo la guerra, e si iniziarono a formare le piccole formazioni che poi spingevano su altri versanti come il bebop. Ma torniamo alle Voci di Corridoio, che sono qui con noi. Per esempio, un artista di riferimento dello swing è un signore italo-americano nato a New Orleans da genitori siciliani, chiamato Louis Prima. Ecco la versione originale di Just a Gigolo qui al Soundcheck di Radio 24. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. Soundcheck, il suono della musica. Si parla di swing al Soundcheck di Radio 24 con Voci di Corridoio, nostri ospiti, e infatti la parte ritmica di questa band italiana che celebra lo swing italiano è in azione. Sì, perché per lo swing, mio caro Francesco, è importante avere il supporto di una sezione ritmica forte, e quindi anche nelle big band il ruolo del batterista, contrabbassista, pianista e chitarrista erano fondamentali, e poi naturalmente gli arrangiamenti per la big band che davano il supporto ai grandi solisti in quel periodo. Quindi Duke Ellington era a New York, Count Basie era a Kansas City, ma il grande successo per lo swing è arrivato in seguito, nel senso che lo swing iniziò a spopolare anche fra i bianchi, e quindi le formazioni più importanti, quelle che ebbero poi esposizione anche sulla radio americana, erano quelle composte e guidate da musicisti bianchi, ovvero Benny Goodman, ovvero Tommy Dorsey, Glenn Miller, Woody Herman, ma anche il clarinettista Artie Shaw. Questo perché? Perché per partecipare a un programma radiofonico bisognava essere bianchi. Sì, era uno dei requisiti principali, non si poteva essere neri. E infatti questo è stato una gravissima pecca proprio del governo americano. Eh sì, è uno in realtà dei più grandi crimini, possiamo dire, la segregazione razziale. Noi abbiamo raccontato anche la settimana scorsa, parlando di Clark Terry, che è stato il primo musicista nero a entrare a far parte della big band di un network radiofonico americano. Sì, era in televisione in quel caso. Ah, in televisione. In televisione, era già più avanti Clark Terry. Bene, ma a un certo punto lo swing sbarca anche nel nostro paese. È la paternità dello swing italiano, nato quindi su emulazione del filone americano, ed attribuire a un signore in particolare, il signor Alberto Rabagliati, e poi a un trio composto dalle sorelle Lescano, ovvero il trio Lescano. Ho detto una stupidaggine? No, assolutamente. Il maestro Prato, negli studi Rai di Torino, incontrò queste tre ragazze, che in realtà erano delle contorsionisti olandesi, di madre olandese, che avevano questa particolare modo di cantare. Piacque anche un po' questo fatto dell'accento straniero, e costruirono proprio per loro dei brani in armonizzazione stretta. Ecco, poi gli altri musicisti di riferimento italiani per l'evoluzione dello swing nel nostro paese sono stati Natalino Otto, no? Ernesto Bonino è stato torinese, era considerato un cantante rivoluzionario quasi per il nostro paese, no? Poi naturalmente i direttori delle varie orchestre dell'EIAR, ovvero le orchestre dei ritmi moderni della RAI. Sì, della RAI. Inizialmente in radio venne soprattutto proposto lo swing, da lì vediamo anche l'opera di Lelio Luttazzi, che era uno dei più grandi appassionati di swing dell'epoca. Inizia dal 53 in radio con un programma era un quiz, se non sbaglio, di Mike Bongiorno, e poi arriva a portare lo swing anche in televisione fino agli anni 69-70, possiamo dire. Ecco, Elena, allora raccontami un po' questo lavoro, Voci di Corridoio speciale per l'Elio, con la partecipazione di Iula De Palma. Abbiamo detto che Iula De Palma, che ormai non vogliamo dire l'età, però insomma è una veterana, sì, ecco, sì, del genere, vive da tanti anni in Canada, e tra l'altro una storia buffissima quella di Iula De Palma, perché è stata una star della radio e della televisione italiana, poi a un certo punto si è sposata, si è andata in Canada e l'abbiamo persa. Sì, lei ha fatto proprio una scelta a un certo punto, aveva deciso che a un certo punto della sua carriera, dopo 25 anni di carriera, avrebbe messo il punto. Ma voi che l'avete incontrata e conosciuta vi ha raccontato? Noi purtroppo perché non l'abbiamo ancora incontrata, perché... Ma scusa, però ha partecipato alla realizzazione di questo disco. Come avete fatto? Un equilibrismo, diciamo. Come avete fatto a via avere... Skype noi ci parliamo, diciamo, regolarmente, e lei assiste a volte anche alle nostre prove. Ecco, però siamo, è presente divertenti. Nel disco che avete fatto, le avete mandato il materiale, e lei ha sovrainciso, esatto, in uno studio in Canada. Lei è andata a Toronto in uno studio dopo, diciamo, quasi 40 anni, direi, che non entrava in studio. Quindi emozionatissima, ovviamente noi molto più di lei. La cosa sorprendente è che ha comunque una voce ancora giovanissima. Sì, e poi ci ha raccontato come è avvenuta la registrazione, è entrata in questo studio e il tecnico le ha messo le cuffie in testa, ha fatto partire la traccia e lei ha cantato tutto il brano dall'inizio alla fine senza fermarsi. Ma che brava! E il tecnico guardava il marito dicendo: ma come, la signora la fa tutta di seguito, non si ferma, perché noi siamo abituati che facciamo, no? a pezzi. A pezzi. E invece no, ma perché bene, mi devo fermare? E quindi possiamo dirlo, mio caro Francesco, una professionista d'altri tempi. Sì, una old school però. Sì. Allora, vogliamo sentire che cosa ha realizzato per voi Iula De Palma, che partecipa in questo speciale per l'Elio dei Voci di Corridoio in un brano intitolato Eccezionalmente Sì, Voci di Corridoio, con la partecipazione di Iula De Palma. Ma le cose sono andate grosso modo così, fanciullescamente, forse, chissà, giuro, eccezionalmente, forse, chissà, giuro, improvvisamente ti ho detto sì, ti ho detto sì, sì, sì. Lo swing italiano di Voci di Corridoio, nostri ospiti con Eccezionalmente Sì, da questo nuovo album molto carino per ricordare la figura di Lelio Luttazzi, infatti si intitola Speciale per Lelio. Ma veniamo proprio allo swing italiano oggi. Che cosa succede nel nostro paese? Ci sono delle manifestazioni, dei festival, ci sono altre band che celebrano questo genere? Credo che band ce ne siano parecchie. Quello che è interessante è che si è ricominciato a ballare lo swing, e questo motiva la gente anche ad ascoltarlo e pilota proprio l'ascolto. Eh sì, è vero, un concerto di swing è una festa, è una festa, un momento gioioso. E tra l'altro la cosa bella è che il pubblico partecipa con vestiti rigorosamente dell'epoca, vintage, che sono, magari se li sono fatti fare dalla sarta, a modello di quelli originali. Esatto. E quindi è una vera e propria festa. Quali sono i festival in Italia dove si può ascoltare swing? Credo che ci sia ad Ancona, Senigallia, no? Senigallia sicuramente, adesso non ricordo il nome, c'è quello più importante, Jamboree Festival, dove tra l'altro io non sono mai stato, ma addirittura ci sono anche banchi, c'è un mercatino di cose vintage, quindi attira anche la gente a comprare i vestiti, dischi vecchi, tutto quello che è il... che sta intorno al mondo swing. Ecco, io ho partecipato, ma ormai tanti anni fa, vi sto parlando del 1984, a un programma televisivo del nostro amico Renzo Arbore, che celebrava la radio italiana, un programma intitolato Cari Amici Vicini e Lontani, e c'era, Renzo formò questa band chiamata I Senza Vergogna, mio caro Francesco Tromba. Io non me li ricordo. Tu non eri neanche nato forse. Però io devo dire che per me è stato galeotto questo disco di Renzo. Con I Senza Vergogna? Assolutamente, perché noi siamo nati nel 90, ma io che allora studiavo ancora in conservatorio organo, continuavo ad ascoltare, mi ero fatto una cassetta in macchina, allora c'erano ancora le cassette, e continuavo a sentire questi brani che lui faceva, hanno fatto delle robe di Natalino, mi ricordo. Sì, dello swing e quindi italiano. Questo sì. Mi ha riportato alla mente cose che sentivo da mio nonno sicuramente, ma è stato lì che ha fatto scattare l'idea. Credo che Renzo, che comunque musicalmente onnivoro e ascolta di tutto, dalla world music alla musica napoletana, come ben sapete, al jazz contemporaneo e allo swing, sia anche uno dei più preparati del nostro paese sullo swing italiano, sulle canzoni, ricorda tutti i testi, è una cosa scioccante quasi. E tra l'altro si diverte a proporlo ogni tanto e ultimamente, insomma qualche anno fa, ha anche partecipato a una registrazione con la vocalist Niki Nicolai, la moglie di Stefano Di Battista, con la partecipazione del pianista Dado Moroni, per realizzare una composizione originale intitolata Un cornetto e un cachet. Allora io direi di ascoltare, per salutare anche Renzo Arbore, che presto tornerà qui al nostro soundcheck insieme a Niki Nicolai, per Un cornetto e un cachet. Thank you. Soundcheck. Il suono della musica. Quando una ragazza dice no, prendi il tuo sassofono, canta in un megafono, non dimenticare. Ci vuole jazz. Lei si muoverà convulsamente ritmando con le mani. E quando infine tu la vorrai baciar, vedrai che dirà oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, tutto questo è jazz. Quando una ragazza a New Orleans, un altro brano scritto dal maestro Lelio Luttazzi, celebrato dalle voci di corridoio in questo speciale per Lelio, che è anche una bella confezione con la partecipazione di Iula De Palma. Certamente importante per lo swing italiano anche il quartetto Cetra, è stato fondamentale, no? Il quartetto Cetra è il nostro quartetto di riferimento, essendo un gruppo vocale, sicuramente. Volevo solo aggiungere una cosa riguardo il disco e riprendo il discorso del quartetto, perché per noi è molto importante. Nel disco c'è anche un brano che cantiamo virtualmente con Lelio Luttazzi, con la sua voce. Bene. Il brano si intitola Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Un'operazione un po' come quella che fece Natalie Cole, che cantò Unforgettable col papà, sì, con Nat King Cole. Questo è il brano che Simona Molinari ha portato a Sanremo qualche anno fa. Sì. E la signora Luttazzi ci ha regalato la voce di Lelio, che aveva fatto in un provino, e allora abbiamo costruito questa cosa insieme a lui. Eh sì, è vero. Simona Molinari ha recuperato lo swing, lo ha trasformato in electro swing, è oggi un'artista pop che però è devota al genere, avendo studiato anche jazz, e appassionata di Ella Fitzgerald. Certo. Speriamo di averla ospite, è anche una bella ragazza, mio caro Tromba, sarai felice? Speriamo allora. Speriamo, noi la invitiamo, e quindi quando vuole Simona Molinari ci può venire a trovare qui al Soundcheck di Radio 24. Allora, li avete incontrati? Sì, anche quello che volevo dire, che oltre i ragazzi del quartetto Cetra. Fu proprio le prime persone a cui io scrissi un giorno, scrivemmo insieme nel 93, e mi telefonò Virginio una domenica mattina, molto stupito che un gruppo di giovani, allora giovani, 25 anni fa, si fossero dedicati allo swing italiano. Allora eravamo un po' degli alieni in quel periodo, adesso lo swing di nuovo, e mi dissero che sarebbero venuti nella primavera a Torino, e quindi scelsero di venire un giorno prima per andare a cena insieme. Fu una cena molto importante per noi quell'incontro, perché innanzitutto cambiò il nostro nome. Perché fu proprio Virgilio che ci disse: ma scusate, voi fate swing italiano, non potete chiamarvi Swing and Five, dovete trovare e Vulcanico, come era Virginio, cominciò a buttare dei nomi, Preta-Porté, che vabbè non è italiano, ma fino ad arrivare a tutto il Voci di, alla fine scegliemmo insieme Voci di Corridoio, e nacque proprio con questo incontro. Bene, quindi battezzati dal quartetto Cetra. Beh, non è male. Allora, noi stiamo quasi per chiudere la prima parte del nostro soundcheck, continueremo così, mio caro Francesco. A questo punto le Voci di Corridoio ci hanno ispirato, andremo sul versante electro swing nella seconda parte, dopo l'informazione di Radio 24. Mi sa anche mista un po' di tradizione. Bravo, esatto, hai capito tutto. Allora, hai già visto la scaletta? Allora. Sì. Ecco, allora io direi di ricordare, salutando le Voci di Corridoio, naturalmente se volete restare con noi, a noi fa piacere, altri due personaggi fondamentali, no? Come Fred Buscaglione e il bravissimo Nicola Arigliano, che verrà ricordato a maggio con un bellissimo concerto, credo alla Casa del Jazz di Roma, giusto? No, all'Auditorium. Addirittura all'Auditorium. Sì. A opera del batterista Giampaolo Ascolese, che ha accompagnato negli ultimi anni a destra e a sinistra Nicola Arigliano. Sì, il 30 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Giampaolo Ascolese insieme a Marie-Reine Levra e altri musicisti che hanno suonato con Nicola Arigliano nel corso della sua carriera. Quindi vi consiglio, se siete appassionati del genere, di andare a vedere questo concerto. Insomma, stiamo parlando di un concerto a fine maggio, quindi ne riparleremo. Allora, Fred Buscaglione con Buonasera Signorina, naturalmente, per chiudere la prima parte del soundcheck. A dopo. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo il GR24 con il soundcheck qui dal Groovemaster Studio, e adesso gli amici delle Voci di Corridoio hanno lasciato le loro postazioni. È stato molto piacevole incontrarli nella prima parte e soprattutto sentire anche un po' di suoni, perché abbiamo tutti i nostri strumenti e ogni tanto qualcuno ci mette anche le mani, è bello. Sì, credo che anche il risultato per i radioascoltatori possa essere magari piacevole, che comunque sentire una band che suona live in sottofondo un programma radiofonico. Sì, sembrava proprio di essere in un bel club americano degli anni 30. Sì, e poi loro sono, oltre che bravi, anche molto simpatici, devo molto dire. Carini. Allora, Voci di Corridoio hanno lasciato il nostro studio, ma noi continuiamo allora con lo swing, però facciamo un salto nel futuro, oppure veniamo a oggi con il suono dello swing contemporaneo. Sì, passiamo alla contemporaneità, come è stato anche recuperato un po' lo, ecco, swing del genere. E io direi, mio caro Francesco, di presentare ancora una volta una delle nostre preferite, una vocalist bravissima che ha anche una storia che noi possiamo raccontare, quindi vi parliamo di Dessi Di Lauro. Gli americani la pronunciano De Lauro, però è Di Lauro, perché sì, forse perché è anche delle origini italiane. Sì, ha origini italiane, cubane, brasiliane, un po' di tutto, diciamo. Ecco perché ha una storia che può essere raccontata, perché prima di diventare una stella di riferimento dell'electro swing contemporaneo, questa ragazza ne ha passate di tutti i colori. Eh sì, è stata con un ragazzo, diciamo, che non la trattava proprio bene, la picchiava spesso, a quanto pare. Ha raccontato lei stessa questa storia. È l'unica via, diciamo, di salvezza per lei era la musica. Infatti si chiudeva nella stanza a comporre musica, perché anche in quel periodo si stava preparando per delle audizioni, per il Cirque du Soleil, perché era stata contattata da uno dello staff per fare, appunto, perché stavano cercando una cantante che fosse anche brava a ballare, ma che avesse comunque delle notazioni swing, un percorso swing. Ecco, Dessi Di Lauro è in parte cubana, insomma un sangue misto, cubana, brasiliana e italiana, e poi ha scelto lo swing come punto di riferimento per la sua musica. Sì, molto caliente, possiamo dire. Credo che lei abbia iniziato a muovere i primi passi lì in Canada, a Montreal, però adesso ha come base operativa che cosa? La Florida, in Florida. Sì, in realtà sì, si è spostata in Florida, però adesso, se non sbaglio, di base dovrebbe essere in California, perché il suo nuovo ragazzo, che è diventato anche marito, è un producer e anche musicista californiano, con il quale collabora per le sue produzioni. Sì. Quindi Dessi Di Lauro si è formata nei cori gospel, ha suonato R&B in formazioni soul contemporanee, ha lavorato come background vocalist anche per artisti importanti come Mary J. Blige, fino a quando ha pensato bene di sfornare la sua produzione tipicamente electro swing di oggi, e il brano è proprio una delle ultime pubblicazioni a suo nome. Si intitola Popularity Contest. Dessi Di Lauro al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Una elaborazione in chiave swing del primo primo successo discografico di D'Angelo, ovvero Brown Sugar, nella versione proprio di Minimatic, disc jockey di riferimento per il genere francese, che ha una formula di successo, credo, Francesco. Sì, una ricetta vera e propria. Una ricetta. Lui dice: un tocco di swing, una fetta di funk, tanti beat, un sacco di suoni pop idioti tutto intorno. Ecco, e con i suoni idioti il signor Minimatic gira in lungo e in largo l'Europa e forse anche il mondo per proporre questa sua formula, e partecipa anche a molti festival swing. Lo abbiamo detto prima, nella prima parte, con Voci di Corridoio, che partecipare a un festival swing è proprio come partecipare a una vera e propria festa danzante. Bisogna prepararsi a casa quasi come per partecipare a un carnevale. Bisogna recuperare i vestiti dell'epoca, quelli degli anni 30, anni 40, oppure come nel caso del Jamboree Summer Festival che si svolge a Senigallia, si può spaziare anche con vestiti, abbigliamento tipicamente tropicale, quasi da americano alle Hawaii, perché il festival si svolge in agosto, e quindi è proprio un divertimento assoluto partecipare a quel festival. Sì, poi arrivati lì sembra si ha la sensazione di aver preso proprio la macchina del tempo e di essersi spostati. A proposito di macchine, recuperano pure le macchine americane, non dico degli anni 30-40, quello è molto complicato procurarsele, però quelle degli anni 50 si vedono lì. Sì, e poi c'è di tutto: corsi di ballo, danze acrobatiche, colori, un'esplosione vera e propria. Sì, ecco, diciamo che il festival tratta non solo lo swing, ma poi è specializzato anche in rockabilly e rock and roll e tutto il genere, insomma, tipicamente americano, che va dagli anni 30 agli anni 50. Sì, ormai si categorizza molto nella maniera più ampia come festival vintage, possiamo dire. E non è l'unico festival, perché ci sono anche altri appuntamenti in Italia. Alcuni sono già passati. Sì, sono passati. Però ce ne sono altri, tipo la prossima estate, che cosa c'è? Forse anche a Milano? Allora, a Milano già l'hanno fatto, l'hanno nel realizzato, periodo di ottobre. Ci sarà un festival all'Isola d'Elba. Nella prima settimana di giugno, poi ci sarà anche, c'è stato anche un festival a Parma, sempre nel periodo invernale, ci sarà un festival anche a Praga nella primavera ad aprile, e anche Londra ha il suo festival swing, che partirà anch'esso nel periodo di aprile. Ecco, poi negli Stati Uniti ce ne sono un sacco, perché soprattutto nelle università americane, quelle che hanno i dipartimenti di musica, e quindi ci sono le big band composte dai giovani musicisti, i giovani studenti, il repertorio dello swing è quello che va di moda. Ma ormai ti sto parlando da 25 anni a questa parte, lo swing nelle università viene ballato e apprezzato dai giovanissimi. Sì, dal punto di vista dei musicisti iniziano a farsi le ossa magari. È nelle big band del genere. Per chi va a questi festival ovviamente c'è tanto divertimento, immagino proprio si riviva anche l'atmosfera del proibizionismo. E sicuramente ha frequentato le big band swing anche il contrabbassista Christian McBride. Perché parlo di Christian McBride? Tu lo sai, perché è un gancio formidabile per presentare ancora una volta il talento di Shina Steele, che in questo momento è uno dei miei dischi preferiti, Rise. Sì, è un disco tra l'altro che raccoglie diversi tipi di suono, tra cui c'è anche dal soul, anche qualcosa di rock, e poi c'è questo brano intitolato Paper Bag. A me piace perché Shina Steele interpreta con uno swing incredibile questa composizione di Fiona Apple, che è una rocker. Sì, in realtà però trasforma il brano in uno swing moderno. Sì, ecco, uno swing moderno, ecco, la cadenza è quella dello swing, e poi ci sono Christian McBride al contrabbasso e Eric Harland alla batteria, che utilizza solo il rullante con le spazzole, però il risultato è quello che ascoltate qui al soundcheck. Paper Bag, Shina Steele al soundcheck. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be at. But then the... Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. E oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo parlando di swing. Abbiamo raccontato l'evoluzione dello swing negli Stati Uniti con le orchestre di Duke Ellington e Count Basie, le orchestre nere che hanno formato intere generazioni di musicisti, condizionando poi l'evoluzione del jazz, poi l'esplosione dello swing come danza, come genere, a opera dei grandi direttori d'orchestra bianchi, quelli che riuscirono a portare la musica in radio e anche in televisione, l'evoluzione poi dello swing in Italia, ne abbiamo parlato con le voci di corridoio e siamo approdati a oggi con l'electro swing. Però dobbiamo andare a verificare nuovamente quello puro. Ecco, andiamo, sì, mio caro Francesco Tromba, facciamo un salto nel passato, andiamo al 1962, esattamente ci sono due giorni importanti, il 2 e il 3 di ottobre del 1962 si incontrano l'orchestra, la big band diretta da Count Basie, quindi con lo swing tipico di Kansas City, con The Voice in Person, e The Voice in Person è Frank Sinatra. Oh, ovviamente. Frank Sinatra, Latin Lover, che fino ad allora aveva cantato tutto il songbook e quindi gli standard del repertorio classico americano del musical, da Cole Porter, George Gershwin e via dicendo, con arrangiamenti potremmo definirli quasi pop. Ecco, era considerato il crooner di riferimento, anche se a lui non piaceva questo termine. Sai che cosa significa crooner? Sì. No, non beh, mi ricordo. Oggi quando si parla di crooner si parla di un cantante confidenziale, intimo. Allora invece quando si definiva un cantante un crooner era quasi un'offesa, un insulto perché il crooner era quello che cantava piano, diciamo, sotto la doccia, quello scarso. Allora Frank Sinatra e Count Basie si incontrano e qui c'è anche un po' un'evoluzione per il suono di Frank Sinatra, perché sì, c'è il primo vero e proprio elemento di jazz puro, cioè un elemento che non si trova negli altri dischi di Frank Sinatra, ovvero l'improvvisazione dei musicisti. Certo, Frank Sinatra si ritrova a lavorare con Count Basie, con quella strepitosa big band, e quindi in questo album immortale Count Basie e Frank Sinatra ci sono vari assoli, fra i quali quelli del sassofonista Frank West, che era il tenorista dell'orchestra di Count Basie, e quindi il crooner si trasforma in vero e proprio cantante jazzista. Di jazz. Allora, il brano che abbiamo scelto si intitola I Want Dance, Frank Sinatra e Count Basie al Soundcheck. I know that music leads the way to romance, so if I hold you in my arms, che suono e che classe! Eh sì, Frank Sinatra e Count Basie con la sua big band qui al Soundcheck. E al Soundcheck abbiamo parlato quindi del sound tipico delle big band di Kansas City e ci spostiamo a New York. Lo abbiamo detto, al Cotton Club, l'artista di riferimento, la big band di riferimento a partire dal 1930-35 è stata quella di Duke Ellington. E qui al Soundcheck c'è un altro incontro ai massimi livelli, stiamo parlando proprio, potremmo dire, al top di gamma. Eh sì, Duke Ellington era uno degli innovatori forse maggiori, cioè riusciva a far fruire una musica completamente nuova, delle sperimentazioni, a comunque un vastissimo pubblico che magari non era abituato a questa sperimentazione. In questo caso vediamo come si incontra con quella che possiamo dire è la regina, voce la regina dello swing, un sì, usignolo in persona. Io credo, e lo ripeto, che prima o poi Papa Francesco debba prendere in considerazione la beatificazione di Ella Fitzgerald. Ma per il mondo della musica è già più che santa. Assolutamente sì. Allora, Duke Ellington e Ella Fitzgerald si incontrano per creare una versione vocale di Take the A-Train, che era poi il cavallo di battaglia dell'orchestra di Duke Ellington, addirittura la sigla, brano scritto, a quattro mani da Duke Ellington e da Billy Strayhorn, che ha affiancato Duke Ellington in molti lavori discografici ed era proprio l'arrangiatore e il compositore di riferimento del grande Duke. Sì, io sto leggendo una biografia di Duke Ellington in cui lui descrive appunto Billy Strayhorn come il suo braccio destro, sinistro, gli occhi dietro la schiena, gli occhi davanti, cioè praticamente era la persona di cui si fidava in assoluto di più nella sua carriera. Quando aveva un dubbio di qualsiasi tipo su un arrangiamento, si ritrovava un attimo chiuso in una melodia, andava da Billy Strayhorn, ne parlava e riusciva ad uscire fuori da... Allora verifichiamo, Francesco, che effetto fa oggi, nel 2015, sulla radio italiana, ascoltare Duke Ellington con Ella Fitzgerald. Soundcheck, il suono della musica. Ritorno della giovane voce di Nadine in Crazy, un brano non tanto swing ma dal sapore sicuramente retro per questa giovane artista, che dopo il primo airplay qui al Soundcheck Radio 24 ha ricevuto tanti consensi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, proprio di appassionati che chiedevano informazioni su questa artista. Però mi sa che di informazioni non ce ne sono poi tante, e tra l'altro non è neanche facile rintracciare questa versione di Crazy, perché non credo che il disco sia in distribuzione. No, io l'ho trovato su Bandcamp, lì si trova facilmente, è uscito a gennaio del 2015, quest'anno. Quindi basta andare su Bandcamp e cercare Nadine Crazy. Sì, in realtà ne escono tante di Nadine, se vedete la sua sì, faccia. Ce ne sono un centinaio. Sì, sì, perché diciamo ha scelto un nome non proprio... originale, esatto. Però segnalando Nadine e Crazy su Bandcamp si ritraccia. Ok, si ritrova Nadine, questo lo diciamo perché così evitiamo agli amici di scrivere un'altra mail per avere informazioni al nostro indirizzo di posta elettronica. Allora, questa ragazzina, figlia di un pastore cristiano, nata a Milwaukee, poi si è trasferita a El Paso nel Texas, e quindi poi l'evoluzione della musica, tanto per dare due notizie, no? Sì, sennò perdiamo l'abitudine. I suoi punti di riferimento dal punto di vista vocale sono Frank Sinatra, e lo abbiamo suonato, Rita Franklin e Tony Bennett, quindi diciamo è in linea anche con la puntata sì, di oggi, che è arrivata proprio agli sgoccioli. Eh sì, ormai siamo alla fine. Bene, domani comunque ci rivediamo, ci risentiamo qui al Soundcheck alle 15:30. La prima parte sarà una puntata molto molto interessante, perché parleremo della radio oggi. Perché oltre alle indagini sugli ascolti sulla radio italiana, che analizzeremo insieme a un esperto italiano che è Carlo Mancini, che ha diretto Grandi Network e insegna a Napoli in un corso parauniversitario proprio gli elementi fondamentali della radio, ma ne parleremo con lui, c'è un articolo bizzarro pubblicato da un ricercatore americano che praticamente dà pochi anni di vita alla radio generalista. Si dice che entro il 2030 massimo non esisteranno più le radio. Più le radio, mamma mia, che guai. Solo che quelle guai, che hanno un supporto vero. Un supporto economico. Economico. Che non è quello delle pubblicità. No, non privato, un supporto. Ma va bene, ma ne parliamo domani nella prima parte. Poi nella seconda parte sono felice di ospitare uno dei migliori musicisti italiani di jazz, Rosario Bonaccorso, contrabbassista noto in tutto il mondo, che ci presenterà il nuovo album intitolato Viaggiando, con Roberto Taufik, Fabrizio Bosso e Cavier Girotto. Ma tutto questo domani, sempre al Soundcheck qui su Radio 24. E chiudiamo questo appuntamento dedicato allo swing con un classico del genere, il brano scritto da lui prima, intitolato Sing Sing Sing, nella versione dell'orchestra di Brian Setzer, una delle orchestre più importanti dello swing di oggi, che recupera completamente l'arrangiamento originale realizzato da Benny Goodman per quel famoso concerto alla Carnegie Hall. Tra l'altro Brian Setzer è un campione, possiamo dire, perché ha vinto già 3 Grammy Awards, quindi non uno qualunque. Ecco, quindi possiamo dirlo, lo swing è vivo. Eh sì, è ancora vivo e lotta insieme a noi. Lunga vita allo swing. Brian Setzer qui al Soundcheck, ci risentiamo domani. Buona serata a tutti. Buona serata.